Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Inizia una nuova settimana da passare assieme. Inizia un nuovo mese da passare assieme, l'ultimo mese dell'anno, dicembre con Eclettica, dicembre con Giulio Caperdoni, sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni fra le 19 e le 20. E se questo orario per qualche motivo non vi dovesse andare bene, magari non sempre, solo qualche giorno della settimana, allora potreste recuperare il tutto grazie al podcasting, podcasting di cui trovate i dettagli o su www.radiorockfm.com oppure anche su myspace.com/eclettica. Poi vi ricordo l'esistenza anche della lista nera, nel caso siate nuovi da queste parti, ovvero sia la possibilità di ricevere direttamente nella vostra casella di posta l'elenco dei brani, dei film e delle letture che costituiscono la trasmissione. Andiamo a incominciare! Era duro l'inverno del 1933. Quella sera, arrancando verso casa attraverso fiamme di gelo, con le dita dei piedi che mi bruciavano, le orecchie che andavano a fuoco e la neve che mi turbinava intorno come un nugolo di suore furibonde, mi fermai di colpo. Era giunto il momento di tirare le somme. Con la pioggia o col sereno c'erano delle forze al mondo che cercavano di distruggermi. «Dominic Molise», mi dissi, «aspetta un attimo, sta andando tutto secondo i tuoi piani?» Esamina attentamente la tua condizione. Considera obiettivamente il tuo stato. Che succede, Dom? Questo era l'incipit di Un anno terribile di John Fante. Dear Marty, if my calculations are correct, you will receive this letter immediately after you saw the DeLorean struck by lightning. First, let me assure you that I'm alive and well. I've been living happily these past 8 months in the year 1885. The lightning bolt... 1885! September 1885! Wait, Ken, wait a minute! What's this all about? He's alive! The doc's alive! He's in the Old West, but he's alive! Never did! You all right? You need any help? There's only one man who can help me. Mi è successa una cosa strana settimana scorsa, anzi è successa più volte. La conseguenza di tutto questo è stato il brano che avete sentito in apertura di questa puntata di Eclettica. È successo che più di una persona la scorsa settimana mi abbia parlato della versione dei We Are Scientists di Hoppy Polla, brano originariamente dei Sigur Rós, brano che avevo trasmesso, se non ricordo male, nella prima settimana di questa nuova stagione di Eclettica. E quindi, essendosi verificata questa strana coincidenza, ho deciso di andare a riprendere quel brano e farvelo riascoltare. Poi è stata la volta del quartetto da Glasgow di nome Frightened Rabbit, che incide per Fat Cat Records. The Grays, il titolo dell'album dal quale abbiamo estratto il pezzo intitolato Square Nine, per lasciare ora lo spazio ad un nome nuovo italiano, un nome che non ha ancora un contratto, si autoproducono, sono due fratelli laziali, si chiamano Cuzzo. Prima c'era un gruppo di cui facevano parte il cui nome era Silver 6. I Cuzzo è da qualche anno che fanno musica per conto loro e non a caso, vedo nella loro biografia, hanno suonato con Bugo. L'ho letto dopo che avevo accostato mentalmente a Bugo e i Cuzzo ascoltando il CD masterizzato che mi avevano fatto avere. Da questo CD io vi faccio ascoltare Ale. Divento vecchio e noioso, pietoso e ridicolo. Vorrei gettarmi nel vuoto e finire distrutto, un rutto e una lacrima. Ma ora sono felice, sono tanto allegro, che bello vivere a me. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. In silenzio affogare in mare o in un bidet. E poi al supermercato ho preso un litro di vino, una penna e una busta blu. Blu. Ed ora sono felice, sono tanto allegro. Sono contento e i miei giorni ridono con me. Chissà se mi rimpiangerai. Sono felice, sono tanto allegro, che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. Una sera me ne stavo a sedere sul letto della mia stanza d'albergo, a Bunker Hill, nel cuore di Los Angeles. Era un momento importante della mia vita. Dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo. Così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta. Era un bel problema, degno della massima attenzione. Lo risolsi spegnendo la luce e andandomene a dormire. Al mattino mi svegliai. Decisi che avevo bisogno di un po' di esercizio fisico e cominciai subito. Feci parecchie flessioni, poi mi lavai i denti. Sentii in bocca il sapore del sangue e vidi che lo spazzolino era colorato di rosa. Mi ricordai cosa diceva la pubblicità e decisi di uscire a prendermi un caffè. Questo era l'incipit di Chiedi alla polvere di John Fante. Doc! Doc! Doc! Okay, relax, Doc. It's me. It's me. It's Marty. No, it can't be. Just sent you back to the future. Yeah. Oh, I know. You did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future. We are smoke against myself. Dopo che dal Lazio ci eravamo già ascoltati Cuzzo, l'Italia è stata ancora rappresentata dai toscani Kiddy Car, appena ascoltati con Human Logic, prima ancora la proposta da New York City di Juliana Berwick, così particolare con Dancing with Friends. E si chiude questa prima parte di Eclettica ancora con gli Stati Uniti, Intelligence è il nome della formazione, Deuteronomy è l'album che esce per In the Red, dal quale andiamo ad estrarre Moon Beeps. Tired of waiting.